Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. Io te l'avevo detto. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rapper every time. Bentornati a tutti e a tutte all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Cari compagni, eccoci di nuovo. Oh. Aspetta che ti sento poco, ti sento. Cercami, cercami. Sì, sì. No, ti sento proprio poco. Mi si sente. Adesso ecco, ti si sente. Mi si sente. Dai, ti si sente. E quindi benvenuti e benvenute a Io te l'avevo detto oggi. Oggi un po' scarichi di numeri, perché manca il nostro buon Giacomazzo, che era stato a casa insieme alla compagna, che insomma non sta proprio in formissima. Oggi gli mandiamo un abbraccio, un saluto, dai, e cominciamo. Dai, belli, dai. Dai, forte. Io te l'avevo detto, 87.9 di Radio Onda Rossa, e te l'avevo detto la trasmissione che da quasi 2 anni ormai, la domenica pomeriggio vi tiene compagnia dalle 18 alle 20, con un po' insomma di stupidaggine, con un po' di leggerezza. Vi tiene compagnia, ci si prova, va, più che altro vi si urta nelle peggiori delle maniere possibili. C'hai veramente ragione, infatti vi diamo scusa in anticipo come ogni domenica per rubarvi questo tempo in maniera così ignobile. Io te l'avevo detto appunto, ogni settimana proviamo un pochino a vedere attraverso gli occhi dell'ironia, della satira, ad analizzare quello che succede e quello che ci colpisce in particolare. Questa settimana parleremo di una cosa che qui in radio insomma manca completamente, ossia la pubblicità, il marketing. Questa roba qua insomma, che è quello che ci ha permesso di continuare a fare il lavoro fondamentale che fa questa radio dal 77, senza finanziamenti di alcun partito, di nessun padrino, di nessun padrone, ma solamente grazie ai vostri di aiuti, insomma, alle vostre sottoscrizioni. La radio insomma lo sapete tutti e tutte, campa solamente grazie agli ascoltatori e agli speaker che non prendono una lira e che, al contrario delle altre radio, ogni settimana lasciano i 10 euro nella bustina, o meglio dovrebbero lasciare. Si dovrebbe. Allora, oggi giornata, come diceva Matteo, un sacco impegnativa, e allora si fa un po' una panoramica su quello che è appunto il mondo vastissimo del marketing e della pubblicità. Noi da ingenui di questo mondo proveremo ad inoltrarci, cercheremo di capire, poi capirete anche perché insomma abbiamo scelto questa materia oggi. E che dire? Vabbè, svariamo subito gli altarini, insomma. Alcuni di voi avranno sentito che la settimana scorsa è uscita questa nuova fantastica canzone di uno dei tanti diciamo tri che si sono formati sotto Sanremo. Che si sono formati appunto sotto Sanremo. Stiamo parlando di Fedez, Berti e Achille Lauro, che hanno fatto questa canzone. Oh, signori, proprio il mal de panza, quello dal vero. Titolo 1000, che chiaramente è una pubblicità bella e buona alla bevanda che per antonomasia insomma abbiamo combattuto nel corso degli ultimi 30 anni, la Coca-Cola. C'è questa canzone appunto che a un certo punto nel ritornello la Berti, con la sua voce inconfondibile, insomma, dice: labbra rossa, labbra rosse, Coca-Cola, quindi appunto rimandando al colore dell'etichetta della bevanda e tutta quanta sta storia qua, insomma, non è solo quello, no? Esatto, se fosse solamente già sarebbe un problema solamente, esatto, questo. La settimana scorsa ci trovavamo all'interno di uno dei tanti spazi che stanno qua a Roma a chiacchierare tra di noi e è passata sta canzone qua. Io non l'avevo mai sentita per radio, la prima volta l'ho sentita appunto dentro questo spazio. Io ho detto a Simone, con il quale stavo pranzando, ho fatto: ma ti pare che io vengo qua a farmi l'aperitivo dentro uno spazio e devo sentire la pubblicità della Coca-Cola? Manca a farla apposta. Il giorno dopo l'antitrust ha deciso di provare a bloccare questa pubblicità travestita da canzone, da intrattenimento, ma più tardi, insomma, andremo un po' ad approfondire meglio questa cosa qua, parleremo di questa e di perché tante... poi, insomma, scusa Spot, ma perché poi capiremo, dobbiamo entrare anche un po', entreremo nell'ambito, citava la canzone, ma è il video quello che è più spaventoso di tutto di quella canzone, poi analizzeremo bene il perché poi ci si è arrivati a questo punto, insomma. Comunque, come da rito, andiamo ad incominciare, cioè andiamo a sentire la prima canzone che appunto tratta il tema della vendita in un modo del tutto particolare, un po' più consono a queste frequenze, quindi Venghe Patana dei Funky Pushers. Io te l'avevo detto, 87.9 Radio Onda Rossa, restate all'ascolto, a tra poco, dai! Yeah. Huh. Ai, buon. Ehi, yo, frata mia, già capito che niente te pare rint. Come te, stong immersa fino a quella rinta shit. Perciò mi rinfa così, che diventa più triste. Ma stai stressando da quando pa' pure casa t'ha già visto. Ciao, come stai, che se riesce? È cominciato con una smorfia amare in un sorriso. Poi mai contato che per te che stai in una fase crisi. Un testo mai incontrato per quanto cazzo mi incise. Merite spissa pare come un te caro in gol. Ma quanto si prolisse, tu giuro non me la col. Potei pigliare tu spliff e sicuro hai magnato pol. Pensa che mai c'è tu stesso pure se stivo mi sana fol. Se si data religione, giro curo sari a mano. Non sei manca ragione, ma si pare per te sacale. Tu calvari sto mondo, vari scenari che m'hanno chiesto una laurea in agraria solo per venire patana. Perciò per te lamentà, hai sbagliato soggetto. Stonca sempre a spantacà, ormai tengo ricetta. Tengo c'è cazzeri, mi pare con tutto rispetto. Basta con sta pocondri, se tu stai con macetta, state lontana da me pure perché. Porta se c'è lontana, come già state sempre lontana. Raffice, terra, zappa e patana. Non mi serve una reggia, i pulpette poppana. Tutti i giorni festeggio. I venghe patana, fa di gatta semana. Che calan coppe in mano, voglio non me stessa. Ma non licenziato, sono tutta azzeccato. Televisore a rata, non posso più pava. I venghe patana, fa di gatta semana. Che calan coppe in mano, voglio non me stessa. Ma non licenziato, sono tutta azzeccato. Televisore a rata, non posso più pava. Tutta zicca mai fatica ta semana. Ma si la talamente vendi venghe patana. Vai girando cu gioia la sorda fra i puttana. Si capaci mi stressa cu tutto che sto male. A gestionata puri ca la coppa in mano. Fammi ne sento ma se ne parla rimane. Oggi è giornati patimenti turmente. Debito finanziamento pure per mancato pana. Visto che fatica non ce ne sta oppure non te ne racchi cu ma chi t'ha licenziato. Non sta ti sta lì palle non te fa fa. Che la roba per cui già è studiata te formato, ma fino a mo t'ha sfruttata t'alienata. Pure un televisore ma già catarrata. Uda te che va già sempre addossicato. Pure se da quella che faccio ma già impegnato. Allora sa ma sentisci una mancolla. Che tanta incapata ve che bolle mille bolle blu. Se tu carincare sempre addosso e t'approfitta che diventa sempre più nervoso. E bisognoso binomio che si sposo. Tata capacca che fai perché sei generoso. Lasciami sta fatta che la vire fannino. Mettere pure tu che già dura così. I venghe patano fa di gatta semana. Che calan coppe in mano, voglio non me stessa. Ma na licenziato sono tutta azzeccato. Televisore a rata, non posso più pava. I venghe patano fa di gatta semana. Che calan coppe in mano, voglio non me stessa. Ma na licenziato sono tutta azzeccato. Televisore a rata, non posso più pava. Era meglio se non t'avessa conosciuta. Stava buona come steva. Ma se vera che sta cosa ti è piaciuta, rima allora ma perché no? Se ti dico una cosa te ne futta, pare che ce l'hai con me. Oh no, che stavolta sono arrivata proprio a frutta. Non te voglio più fare. Oh nonna mia, sai come ricevo? Fatela cucina e meglio te. Non t'avvali, non non vado soccata e alla fine faccio pure spesa. Testa vita già mastraquato, tra futuro incerto, niente progetto e fatica mai pavato. È sempre più nu cazzenato, son geeky, le cacciarò fondo con tutte poco bruciato. In da sto posto ci sono nato, lo sport è più diffusi, tutte kill si piglia ammazzato. Ci fanno puro campionato, ma senza porte, senza campo e pure senza stadio. Sempre stessa merda in da radio, sempre stesso panni in dall'armadio. Noi che stiamo sempre più allarmato, noi che campiamo un coppa giornato, noi che pavamo a pozione al lato. Campessimo fa, compa, piglia un ribotto. In un eco mi hanno fotto, siamo un in continua lotto. Esistono rimedi per tutto, tranne pa' morto. O bene quanto male che sta caccia venne forte. Chi venga e padano fa di gata, se mano che calo un coppa in mano. Voglio non mo stessa, ma non licenziato, son go tutta seccato televisore rata, non posso giù pava. I venghe padano fa di gata, se mano che calo un coppa in mano. Voglio non mo stessa, ma non licenziato, son go tutta seccato televisore rata, non posso giù pava. Non posso giù pava. Mamma mia quanto spaccano, e è figo senti ogni tanto insomma delle cosette nuove che, mamma mia, che bomba. Mixano un po' di qua un po' di là, figa figa, molto bella questa traccia. E mandiamo pure un saluto a Domenico che ci ha fatta conoscere. Funky Pusher e Domenico, dai, è grandi. Continuiamo un po' invece la puntata, iniziamo in realtà la puntata e riprendiamo un po' l'argomento. Oggi parliamo un po' di marketing e di pubblicità, visto quello che è successo la settimana scorsa. Ricordiamo che l'antitrust ha provato a denunciare il trio Berti, Achille Lauro e Fedez. Fedez che insomma sembra essere un po' l'architetto di tutta quanta questa manovra commerciale. Sì, manovra commerciale, esatto, chiamiamola con quello che è. Quindi andiamo un po' a vedere quello che è successo. L'antitrust appunto che ha provato a bloccare questa storia qua, fino a quando perlomeno non si va ad inserire il loghetto sotto la scritta piccola in basso, nella quale insomma viene detto che è un prodotto commerciale. Questa cosa qui può sembrare un errore del appunto dell'addetto marketing della Coca-Cola mixato a quello degli artisti, ma in realtà come ci siamo detti più volte mentre preparavamo questa puntata, sembra non essere così, perché non sarebbe cosa nuova utilizzare questa tipologia di chiacchiera per sponsorizzare appunto dei prodotti. Ossia, fa molto comodo finire su tutti quanti i giornali, su tutte quante le televisioni, le bocche di tutti e di tutte, per essere diciamo scorretti. È facile insomma farsi pubblicità attraverso questa cosa qua, no? Va da sé che basta che se ne parli. È un po' quello che dicevamo con altri argomenti, perché se ne parli va bene, se non fosse per il fatto insomma che potrebbero incorrere ad una multa che arriva fino a 5 milioni o giù di lì. Perché? Perché il video che dicevamo prima in questione, che riguarda la canzone suddetta, è proprio uno, è al contrario, sembra di guardare uno spot pubblicitario della fatidica bevanda, e non sembra affatto di sta, cioè va in secondo piano effettivamente il brano e lo scopo del pezzo, sembra tutta una grande manovra commerciale, che è tutto è nato da lì, e quindi la curiosità di capire cosa regola insomma quel mondo, seppur dai nostri occhi, seppur difficile da capire, insomma ci proveremo, e questo è quello che ci ha attratto verso questo insomma il tema di oggi, no? Quindi antitrust, leggendo dalla Treccani, è l'istituzione pubblica preposta alla tutela della concorrenza dell'ordinamento nazionale. Visto che non va bene, Simone ce la spiega meglio che è l'antitrust. No, no, non era per quello. Visto che non ci fidiamo dalla Treccani, dice. Vai, no, perché è interessante invece capire come ci si arriva a certe cose, e perlomeno da qui a casa nostra come funziona. Quindi questa storia qua, noi non siamo né pubblicitari né tantomeno legislatori, però insomma ci sembra di capire che Questa storia qua, soprattutto oggi, ai giorni nostri, lascia un po' il tempo che trova quando ti trovi a combattere con entità che veramente hanno centinaia di migliaia di follower, come abbiamo già detto molto spesso da questi canali, e che vanno automaticamente a influenzare, no? Gli influencer influenzano. Questa cosa qua con la pubblicità e col marketing ci cozza un pochino, tant'è che non è neanche la prima volta che il duo Fedez e Ferragni viene messo sott'occhio della G-Com. Ricordiamo che durante Sanremo la Ferragni con non so quanti milioni di followers insomma ha incitato a votare la canzone di Fedez, che non è riuscita a vincere, è arrivata seconda, e quindi diciamo che la G-Com e l'antitrust si sono rivendicati questa come una grande vittoria. Perché a che cosa servono appunto questi organismi? Lo vediamo un pochino, piano piano ci facciamo un po' di storia. Simone, che si è fatto un po' di ricerchine, magari ce lo dice meglio. No, vabbè, allora innanzitutto c'è da dire che è il mondo vasto, cioè qui non è semplicemente l'analisi del concetto di pubblicità, ma dobbiamo capire innanzitutto che il libero mercato. Esatto, libero mercato, che cosa si intende, soprattutto bisogna parlare un attimino di concorrenza, che è quella che insomma su cui si basa insomma le logiche. Partiamo un attimo dall'analisi dell'antitrust, no? Che cos'è l'antitrust? Spo. Che cos'è l'antitrust? Diccelo te. No, dai. È un insieme di leggi che servono a tutelare appunto chi usufruisce di determinate tipologie di mezzi, da appunto da questa storia qua, da una pubblicità che può essere scorretta, sleale, come in questo caso, mascherata da un'altra cosa quando invece non lo è. Quindi diciamo, piano piano nel corso degli anni si sono aggiunte sempre più funzioni a questi organi che tentano di stare al passo con quello che è il mondo del capitalismo, che prova a ficcarci tutti i giorni, tutto il giorno, qualcosa di cui non abbiamo bisogno in testa per svuotarci le saccocce. E quindi sta roba qua dovrebbe servire così diciamo a metterci una toppa. Abbiamo visto diverse volte che non è così. Questa roba qua non nasce in Italia, ma nasce molti anni fa, prima dell'inizio del Novecento, se non mi sbaglio. 1890 e qualcosa, mi sembra che dobbiamo risalire. In America, proprio per contrastare, diciamo, la cartellonistica pubblicitaria che appunto era molto prepotente all'epoca. Sta roba qua, paradossalmente, dovrebbe anche servire per garantire a chi si butta appunto nel mercato una concorrenza leale, e soprattutto di ricavarsi un piccolo spazio nel mercato. Diciamo che tutta quanta sta roba qua lascia un po' il tempo che trova, infatti non è che ci affidiamo molto come sempre agli organi statali, tant'è che qui il Radio Onda Rossa dal 77 che di pubblicità, di marketing e di questa roba qua insomma non se ne fa, anzi al contrario, l'unica cosa che ci sbattiamo per farvi arrivare insomma sono le lotte e gli appuntamenti a sostegno delle varie lotte, degli spazi e soprattutto quelli della radio, radio che nel corso gli ultimi due anni non ha potuto fare tantissimi eventi, ne abbiamo fatti pochi, per fortuna ci avete sostenuto, infatti stiamo andando alla grande, ma cogliamo anche questo spazio, questa occasione per ricordarvi che sul sito www.ondarossa c'è il banner per sostenere la radio, che campa dal 77, beh, 44 anni senza pubblicità. E quindi detto questo, ci andiamo a sentire il primo contributo della giornata, il fake news del nostro Ivanov Kalabrov, che spezza un attimino e ci risentiamo tra poco. Dai. Buonasera e benvenuti a Fake News 24. Le notizie di oggi: il Codacons contro Fedez, il Vaticano contro il DDL Zan, il TAR del Lazio contro Report, il futuro del Movimento 5 Stelle appeso a un filo. Il Codacons si scaglia contro la canzone 1000 di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Il ritornello Labbra Rosse Coca-Cola è chiaramente una pubblicità ingannevole. La Coca-Cola è nera, non rossa. L'accusa dell'Associazione dei Consumatori. Il Vaticano impugna il concordato per contestare il disegno di legge Zan. Secondo una nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana, il DDL potrebbe intaccare la libertà di pensiero dei cattolici. Prendiamo molto sul serio i dubbi espressi dal Vaticano. Come non potremmo tenere conto delle idee di un gruppo di persone che vanno in giro vestite come stregoni medievali, convinti che l'osse si trasformi in carne per la sola imposizione delle mani? Hanno dichiarato alcuni sostenitori del DDL Zan. La settimana scorsa il TAR del Lazio ha imposto al programma Report di rilevare le fonti che hanno permesso di realizzare il servizio Bassalli, Valbassori e Valbassini sugli appalti pubblici in Lombardia, proprio perché la riservatezza delle fonti, uno dei cardini della libertà di stampa, deve essere eliminata. Perché aspettare che si alzino inutili polemiche in seguito ad inchieste giornalistiche quando basta intimidire i testimoni? Si legge nella sentenza del TAR. E per la rifondazione del Movimento 5 Stelle, Grillo avrebbe proposto a Conte una diarchia, ma l'ex premier non ci sta. Va bene che i coglioni vanno sempre a coppia, ma cerchiamo di essere meno palesi, avrebbe dichiarato l'ex avvocato del popolo. E per i Fake News 24 è tutto, buona serata e linea allo studio. Grande Ivano Scala, prof. News, che io sinceramente non avevo sentito prima. Grande, grande, grandissimo. Sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Va bene, qui c'è qualcosa che sul mixer non ci risponde. Andiamo avanti con la puntata. Abbiamo visto appunto che c'è in corso questa maxi operazione commerciale da parte di questo trio che questo mega tormentone che cerca di ficcarsi dentro le nostre teste con questi motivetti in do maggiore, cosa che comunque non è nemmeno la prima volta che succede, perché possiamo ricordare tutti quanti una cosa simile che è successa credo negli anni 80, no? Vasco Rossi con bollicine, che è comunque sempre la stessa storia. Io la Coca-Cola me la porto a scuola. Su questa cosa qua mi viene un po' da ridere, perché faccio un po' il paragone tra 30 anni fa e quello che succede adesso. E, ecco, Vasco Rossi quantomeno era un rockers, quindi diciamo c'aveva la faccia come il culo in un altro modo. Dicevo, poteva fare lui su... No, nel senso boh, non mi è sembrato uno che si mascherava molto, anzi c'erano anche altre allusioni oltre a quelle della Coca-Cola all'epoca, quindi faceva pure ridere un po' di più. Poi va a capire, insomma. Comunque quello che dicevamo poco fa è che conviene molto farsi fare anche un bel multone per finire sulla bocca di tutti, per farsi pubblicità, perché insomma anche quello è un meccanismo. Sappiamo bene quanto costano gli spazi pubblicitari. Una cosa che è interessante da analizzare sotto questo punto di vista è che soprattutto è uscita molto fuori nell'arco dell'ultimo anno di pandemia è come le pubblicità rispecchiano in minima parte la realtà che ci circonda. Nell'arco dell'ultimo anno nessuno, quasi nessuno insomma, aveva possibilità di muoversi, di conseguenza le case automobilistiche hanno venduto molto meno rispetto agli anni precedenti, quindi abbiamo visto su tutte quante le più grandi reti insomma un aumentare spropositato di questo tipo di pubblicità, e affiancata a questa roba qua, proprio perché non le vendevano, abbiamo visto anche un aumentare di un altro tipo di pubblicità, le pubblicità che parlano tuttora insomma, che provano a venderti prodotti che ti fanno rilassare, che ti fanno stare calmo, integratori eccetera eccetera. Perché? Perché insomma nell'arco dell'ultimo anno tante persone insomma hanno passato momenti non proprio al top. Dal nostro punto di vista insomma, più che bombardarci con gli psicofarmaci e coi tranquillanti, tranquillante nostro, come diceva un gruppo, è un altro insomma, l'erba è come il vino, la risposta nostra insomma per tranquillizzarci potrebbe essere un'altra. Naturalmente non stiamo parlando di patologie cliniche, ma insomma stiamo a parlare di altra roba, anche se che sulle patologie cliniche in alcuni casi la marijuana stiamo vedendo interviene e grandi risultati. Detto questo insomma, la pubblicità e il marketing sono entrati a gamba tesa, ma neanche troppo a gamba tesa in realtà, un pezzetto alla volta, piano piano, sempre di più all'interno delle nostre vite, condizionandole. E, da sempre tutti quanti i grandi marchi e le grandi cose e le grandi multinazionali utilizzano dei testimonial, dei VIP e similari per cercare di di adescarci meglio, diciamo così, e noi abbiamo trovato in rete questo contributo che abbiamo assolutamente pensato di farvi ascoltare perché ne valeva troppo, veramente troppo la pena, e quindi dai, ci andiamo a sentire Whiskey Vat 69 Techno Remix. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un fischio maschio, fischi maschio, fischio fischio, fischio maschio, fischio maschio, fischio moschio, fischio maschio, top! Deve dire whisky maschio senza rischio. È un fischio maschio senza maschio. È il fischio maschio senza maschio. È un fischio fischio senza maschio. È un fischio maschio senza fischio. È un fischio maschio senza maschio. Un caschio moschio senza fischio. È un fischio maschio senza fischio. È un fischio maschio senza whisky. È un fischio maschio senza maschio. È il fischio maschio senza maschio. È un fischio fischio senza maschio. È un fischio maschio senza fischio. È un fischio maschio senza maschio. Un caschio moschio senza fischio. È un fischio maschio senza fischio. È un fischio maschio senza whisky. Col caschio, col fischio, col caschio, col fischio, col caschio, col fischio. No, stop! La rifaccio da capo! Va bene! Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischio maschio, fischi maschio, fischio fischio. Stop! Stop! È un fischio maschio senza maschio. È il fischio maschio senza maschio. È un fischio fischio senza maschio. È un fischio maschio senza fischio. È un fischio maschio senza maschio. Un caschio moschio senza fischio. È un fischio maschio senza fischio. È un fischio maschio senza whisky. Col fischio. No! Col caschio. No! Col fischio. No! Col caschio. Nemmeno! Col fischio. No! Col caschio. No! Col fischio. No! Vabbè. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto questa battuta. Dove sei andati? Solo capolavori, solo capolavori. D'altronde, d'altronde, siamo noi veramente siamo i maestri, insomma, di questa roba qua del vende. Siamo veramente i peggiori. Come dicevamo, tante aziende e tante multinazionali chiedono ai VIP, insomma, di essere dei testimoni, e molto spesso si cade nei conflitti di interesse. Come dicevamo poco fa, tra quello che è successo a Fedez e compagnia bella, ci si è messo in mezzo l'antitrust che attraverso la G-Com cerca di mettere una pezza a questa cosa qua. Ma andiamo un attimo a cercare di capire che cos'è la G-Com. Allora, vediamo un attimo. La G-Com sostanzialmente è l'autorità, diciamo così, che deve andare a vigilare e a regolare tutte quelle enormi pacchetto, insomma, di regole quali l'antitrust prima citate, e si chiama appunto AGCOM, l'Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato, con varie funzioni. Diciamo che quella principale è quella sul monitoraggio degli abusi di posizione dominante, cioè tra le società nel caso di concorrenza, e che è quello che, insomma, stiamo vediamo tutti i giorni tra un prodotto e l'altro. E quindi eccoci qua, insomma. Tutela della concorrenza, quindi anche tutela del consumatore, come dicevamo prima, il conflitto di interessi e un'altra cosa, insomma, il rating di legalità, che forse poi più tardi andiamo a vedere. Per quanto riguarda la tutela della concorrenza, appunto, che significa concorrenza? Io entro nel mercato e devo avere la possibilità di ricavarmi un mio piccolo spazio, che significa che se tante altre aziende diventano un conglomerato e si mangiano automaticamente tutto quanto quello che è la si mangiano tutta quanta quella che è la richiesta, io non ho minimamente la possibilità di entrarci in questo mercato, e quindi dovrebbe vigilare su questa cosa qua, mi sembra di capire, per quanto riguarda questa cosa, sì, qua della concorrenza. E sinceramente, noi, non essendo investitori né tantomeno aziende, o è difficile, insomma, è difficile renderlo, è difficilissimo, è difficile entrarci da dentro a questa roba qua, sì. E infatti poi magari più tardi cerchiamo anche, attraverso un altro collegamento, di farci un po' più di chiarezza su questa cosa. Perché appunto, come dicevamo prima, il marketing e la pubblicità entrano sempre di più all'interno del nostro tessuto sociale. Basta pensare che ci sono persone che vendono e di conseguenza persone che acquistano prodotti, libri, chiamali come te pare, conferenze, dove si impara a vendersi, ok? Cioè il dialogo non è più quello di una volta, non è più comunicazione, ma diventa un modo per aggirare il pensiero della persona con la quale comunichi affinché faccia, esatto, quella che, faccia quello che tu vuoi, ossia acquisti un prodotto oppure faccia delle scelte che vanno nella direzione dove tu vuoi mandare determinate cose. No, questa cosa qua è abbastanza agghiacciante e purtroppo insomma è uno spaccato della società che ci circonda, che è schiava del capitalismo e di tutto quanto quello che ci gira intorno. Noi saremo un po' ripetitivi da un paio d'anni da questa parte, però insomma andiamo sempre a trovare il nemico lì, il nemico più grosso, che è quello insomma del capitalismo. Ci andiamo a sentire una canzone e tra poco partiamo con il secondo spezzone e vi lasciamo con quest'altra canzone che è uscita da qualche tempo ma che io non avevo sentito, di Zulu in solitaria. Si chiama Figurati Tu e quindi ve la facciamo ascoltare. Buon ascolto, a dopo. Dai, è forte. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo. Figura, figura, figura, figura, figura di tu. Paura, paura, paura, non mi hanno fermato che ovvero faceva paura. Figura, figura, figura, figura, figura di tu. Quando hanno sito pure gli amici lontani, servi feroci di tutti i padroni. Prima le avete serviti e dopo rompete pure i coglioni. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo e si può parlare con me da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo. Figura, figura, figura, figura, figura di tu. Ho avuto paura dei democristiani e voi ci andavate a braccetto. Ho avuto paura di Berlusconi e gli reggevate il giochetto. Ho avuto paura del PD ed eravate tutti più buoni. Ho avuto paura dei giallo-verdi e voi facevate la rivoluzione. Ho avuto paura della camorra e vi sentivate tutti immortali. Ho avuto paura e ne avevo ben d'onde perché l'ho pagata cara. Ma l'avevo messo nel conto e mo non ci pensa manca più. E se non mi hanno mai fermato loro, figura, figura di tu. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo e si vuole parlare con me da sta zitto. Oggi non la faccio buona, manca Gesù Cristo. Figura, figura, figura, figura, figura di tu. Parte pure a un certo punto a Jungle, molto figa, molto figa. E, sempre te l'avevo detto, sento sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 per intervenire in diretta. Noi siamo qua fino alle 20 e andiamo avanti con la puntata. Stiamo parlando un po' di marketing, pubblicità e di tutto quanto quello che ruota intorno a questo mondo, proprio per quello che è successo la settimana scorsa. Ossia, insomma, questa canzone che è chiaramente una pubblicità che si tenta di, che è stata tentata, di cui è stato tentato il blocco proprio per questo motivo qua. Non è neanche la prima volta che succede questa roba qua, come dicevamo prima, e ci sono tanti tipi di pubblicità, no? E soprattutto ci sono tante piccole sfaccettature che molto spesso sfuggono agli occhi. La Nike, di cui anche il buon Fedez è stato uno dei testimoni, perché mentre che si rivendicava la lotta su contro a favore del DDL Zan, insomma, portava sta grande maglietta della Nike. Però insomma, la Nike è famosa perché è diventata famosa, è diventata l'azienda leader nel settore delle calzature attraverso, grazie allo sponsor, al testimonial che gli ha fatto Michael Jordan, no? Il famosissimo giocatore di basket. In un'intervista un po' di tempo fa che fece, se non sbaglio, Michael Moore al direttore della Nike, venne fuori insomma che lo sapevano bene quello che stavano facendo, ossia che tutto quanti i soldi che davano a Michael Jordan per fare da sponsor non erano neanche paragonabili lontanamente a tutti quanti gli operai che andavano a costruire il prodotto, che sappiamo bene insomma che tutte quante queste multinazionali vanno ad investire forza lavoro nei paesi più poveri perché si pagano meno tasse, ci sono meno sicurezze per i lavoratori, questi sfruttano sta roba qua, se vanno belli alla faccia di tutti con questi sponsor e si dimenticano tutto quanto quello che ci sta dietro. La Coca-Cola, insomma, il rosso, labbra rossa Coca-Cola, a me mi fa ridere perché il rosso Coca-Cola è il rosso di Babbo Natale, cioè Babbo Natale prima del colore rosso della Coca-Cola, il vestito ufficiale di Babbo Natale era verde, è diventato rosso per la Coca-Cola, cioè nel senso, ci rendiamo conto, la pubblicità e il marketing è quello che riesce a fare a lungo andare e anche quello che non riesce a fare, no? Quanta pubblicità a progresso non serve una mazza. Sopra il tabacco c'è scritto il fumo uccide, ci fanno vedere oppure bellissimo, bevi responsabilmente. Bevi responsabilmente, nel senso, tutti quanti, io veramente me ne immagino la pubblicità a progresso, hai bisogno di un amico astemio per tornare a casa, cioè nel senso, è proprio un paradosso che secondo me scade un po' nel ridicolo e sinceramente lascia anche un bel po' il tempo che trovo. Insomma, è una delle no, le formule tipiche, so, di comunicazione persuasiva, come diceva Sponge, no? Mirata proprio a influenza, insomma, coscienze, atteggiamenti, comportamenti, insomma. E questo è un po' il meccanismo buio di quello che è il tema pubblicità, appunto. E niente, insomma, la troviamo oramai ovunque, con un linguaggio, insomma, si adotta un linguaggio breve, semplice, sistematico, insomma, proprio strutturale, no? Deve arrivare il prima possibile, viene venduta, cioè, attraverso tutti i canali possibili, immaginabili, e niente, insomma, si ripete oramai, invade etere, video, tutto. Come potevamo, insomma, come stiamo analizzando adesso, entra prepotentemente nella musica attraverso i video, insomma, e diventa proprio, distrugge qualsiasi cosa. Se c'è una cosa di cui noi, io te l'avevo detto, siamo molto molto fieri, è il nostro sponsor Kleptofer, che a differenza di tutti quanti gli altri non vende sogni ma realtà terribili e agghiaccianti. Potete trovarli tutti quanti i prodotti della Kleptofer qui a Via dei Voci 56, e tutti quanti ricavati andranno in sostegno a Radio Onda Rossa e al 30 per 1000, quindi spot emotional offerto da Kleptofer. Zan zan zan zan. Ehi, cliente Kleptofer, ti ricordi il Klepto Kit? il pratico Klepto Kit, ricco di arnesi, spadini e chiavi magnetiche che ti permetteranno di aprire e mettere in moto oltre 190 modelli di autovetture e più di 200 motocicli. Hai fretta? Devi andare al lavoro? Oppure semplicemente ti va di fare un giro? Non rimanere ore alla fermata dell'autobus. Prendi la macchina che vuoi, di chi vuoi, quando vuoi. Adesso è tornato nella nuova versione Klepto Kit Card Emotion. Emotion perché potrai personalizzarlo con la foto dei tuoi animaletti domestici. E grazie al nuovo sistema GPS potrai condividere la tua posizione su Instagram. Ma soprattutto, con la pratica funzione cardio, potrai registrare i tuoi battiti cardiaci mentre prendi in prestito la tua macchina preferita. Allenati a gestire l'adrenalina e condividi i tuoi risultati sui tuoi social preferiti. Oh, ma te sei fatto la macchina nuova? Puoi dirlo forte! Oh, ma te sei fatto la macchina nuova? Ma che te strilli, nel senso che me la sono proprio fatta. Fattene una anche tu grazie a Klepto Kit Cardio Emotion. Klepto Kit Cardio Emotion. 5 minuti di paura, perché quando guidi non devi viaggiare, ma provare un'emozione. Usa Kit e arriva a destinazione, senza problemi di parcheggi, davanti alle scuole, le mamme, poi... Top, mamma mia, top, veramente top. Mamma mia, mi raccomando, se utilizzate prodotti Kleptover non vi fate vedere, ok? Bene, continuiamo con la puntata. E, un altro aspetto molto interessante per quanto riguarda il marketing e la pubblicità, sono tutte quante quelle aziende che si appunto fregiano di dei chiamiamoli così bollini che servono appunto per strizzare l'occhio ad alcune tipologie di acquirenti, come per dire quello che succede nel mondo della grande distribuzione alimentare, soprattutto in quella del pesce. C'è un bollino, insomma il Delfino Blu se non sbaglio, che dovrebbe essere questo bollino che dovrebbe certificare il rispetto delle specie che non dovrebbero finire nelle reti dei pescherecci, appunto dovrebbero liberare i delfini se vanno a finire all'interno di queste reti. Questa cosa qua appunto è una cosa che tecnicamente dovrebbe essere da paura. Tu dici, ah bello, io compro una scatoletta di tonno e sono sicuro che chi produce questa scatoletta non uccidere i delfini, non che uccidere i tonni sia meno grave dei delfini, però insomma c'è questa cosa qua e si è scoperto insomma che molte aziende che si fregiano di questo bollino in realtà non riescono, non possono proprio realmente controllare questa roba qui, perché ci sono veramente poche persone che sono addette a controllare questa roba qua, come al solito. Molto spesso spariscono in circostanze misteriose, perché ecco, uno come me o come Simone su un peschereccio in mezzo all'oceano che rompe le scatole a chi sta a lavorare potrebbe fare una finaccia, purtroppo, insomma, da che mondo è mondo. Eppure qua è roba che succede, veramente è una di quelle cose che ti fa un po' pensare che appunto quello che ti dicono attraverso la pubblicità è assolutamente falso. Quello che cercano di venderti è qualcosa di cui tu molto probabilmente non hai bisogno, e niente, questa cosa qua insomma è anche un altro aspetto della pubblicità che ci ha fatto un po' riflettere. Andiamo avanti con la puntata, andiamo a sentire una canzone e rientriamo tra pochissimo, vediamo se riusciamo a fare un collegamento con qualcuno che ci aiuterà a fare chiarezza su questa roba qua. Grandi sorprese, grandi sorprese. Sempre Itlad, sempre 87.9 Radio Onda Rossa. A tra poco. Just for you, I just for you, I got. sipping on. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Yeah. You slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah. 100 bands. Contraband. I got the plug on with Hawker. Whoa. They gonna find you like Baka Blah. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Get your money, let me. Get your money, let me. Get your money, let me. Get your money, let me. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre Io Te L'Avevo Detto. Yes, continuiamo un po' con la puntata di oggi. E 27 giugno 2021, 18.49, andiamo avanti. Continuiamo un po' a parlare di tutto quanto quello che riguarda pubblicità, marketing, eccetera, eccetera. E andiamo a passare la linea a Radio Benaltro, che ci viene appunto in aiuto. Niente, non vi anticipiamo niente, vi facciamo sentire questo contributo della nostra redazione e a tra poco. Radio Benaltro. Benaltro. Radio Benaltro. Radio Benaltro. Hi, my name is Stereo Mike. Radio Benaltro. Eccoci qui, buonasera, ecco. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti e tutte. Ciao a tutti, bei pezzi questi che abbiamo mandato, effettivamente. Sì. Vabbè. Sì, però ogni tanto magari bisognerebbe pure mandare dei pezzi di musica di sinfonie di Beethoven. Radio Benaltro. Sì, beh, sì. Vabbè, beh, sì, o comunque anche qualche stornello c'è ogni sempre, tanto. Ci sarebbe altro da sentire. Comunque, allora, abbiamo questo spazio, diciamo, in condivisione con i compagni di Radio Onda Rossa. Sì, che salutiamo. Salutiamo. Oggi stanno parlando di un argomento importante. Pubblicità, marketing, etica e commercio equo e solidale, E... sì, sicuramente, sicuramente, però senza nulla togliere, voglio dire, però insomma anche l'argomento che riguarda, diciamo, i diritti dei lavoratori, che poi tanto se ne parla, però poi alla fine si sta sempre, no? Però scusate, allora io penso che forse in questo momento la priorità dell'Italia sia il problema della variante Delta, se vogliamo uscire da questa esatto, pandemia, cioè, esatto, di parlare, esatto, insomma. Beh, sì, sì, sicuramente sarebbe ora di parlarne, però allora mi viene da dire che comunque sarebbe ora di parlarne in maniera seria anche del cambiamento climatico, perché voglio dire, cioè, è sotto bisognerebbe parlare del cambiamento climatico, però, certo. Scusate, allora, proprio perché parliamo del cambiamento climatico, bisognerebbe parlare di estinzione del falco pellegrino delle Ande svizzere, che è un argomento di cui nessuno parla. Delle Ande svizzere. Delle Ande svizzere. No, non lo conosco il falco pellegrino, certo, delle Ande svizzere. Parlate sempre di altro, per quello che si sta estinguendo, no? Sì, però. No, vabbè, ma poi non ci dimentichiamo. Il falco pellegrino, quando. Ma no, ma non ci dobbiamo proprio dimenticare, perché sì, veramente sono i dimenticati. Ai bambini, chi è che ci pensa? Esatto, i bambini. Certo, sì. È vero anche che ci sarebbero le mamme, poi. Radio ben altro. Solo contributi di qualità dalla fantastica relazione di Io te l'avevo detto, il come si chiama, il falco pellegrino? Eh sì. Io ho mai sentita sta vertenza, in effetti dovremmo pubblicizzarla un pochino. Ma sì. Va bene, continuiamo con la puntata e diamo il benvenuto a Claudio Morici. Ci senti, Claudio? Eccoci. Bella, grande Claudio, applausoni. Ciao, Claudio. Benvenuto. Ciao. Benvenuto. Benvenuto. E Claudio Morici, insomma, che è un artista a tutto tondo, insomma, scrive, recita, fa un po' di tutto. Molti e molte di noi l'avranno visto ultimamente, perché nel corso di questo ultimo anno insomma ti sei sbizzarrito a trattare diverse tematiche, insomma, che hanno attraversato i nostri pensieri. Anche il falco pellegrino, ho fatto diversi video. Sì, infatti. Falco pellegrino. Ah, ecco, vedi, infatti. Famoso. Devono aver sicuramente ripreso da te, esattamente, esattamente. E, a parte gli scherzi, ci faceva piacere chiacchierare con Claudio. Perché? Perché insomma ci ha raccontato che ha fatto anche il pubblicitario come lavoro prima, insomma, di tutta quanta questa pazzia che sono i suoi video che insomma ci fanno ridere. E quindi magari era anche interessante farti qualche domanda sull'argomento. Certo, certo, sì, l'ho fatto penso 15 anni almeno. E anche adesso ogni tanto lo faccio ancora. Okay. Ogni tanto, diciamo, in una qualche forma. Ok, io una cosa che ti voglio chiedere, immagino che lavoravi all'interno di un'agenzia pubblicitaria. Anche sì, per diversi anni. E com'è l'incontro? Cioè, come funziona? Cioè, proprio qual è il. Quali sono i meccanismi? Esatto. Allora, io venivo da un altro contesto e non c'entra un cavolo, venivo dal contesto psichiatrico, nel senso ero psicologo. E ho lavorato con i ragazzi schizofrenici per 3 anni, okay. Quindi in prima linea facevo proprio le notti, così poi mi sono svegliato una mattina, ho pensato ma quasi quasi faccio un altro lavoro, contentissimo. Poi mi sono cercato un altro lavoro, era difficile trovarlo, perché appunto uno si sveglia la mattina così con un'idea così, iniziai a fare il copywriter in agenzia, c'era il web, così iniziai nella prima agenzia dove ho imparato il mestiere, così. E è un lavoro abbastanza stressante, abbastanza, diciamo, caotico, però mi ricordo che mi dicevano cose del tipo ma se qui sono più matti, vero? E invece io pensavo dentro me, no, sono normalissimi, sono abituato dagli schizofreni più veri, esatto. Tutto in discesa, anche se tutto bene. Però erano ambienti particolari quelli dell'agenzia, erano ambienti che a me non piacevano, non sono mai piaciuti. Infatti, come ho potuto, come ho imparato il mestiere, poi ho fatto il consulente. Però in agenzia sono stato almeno 4-5 anni che ho lavorato in agenzia. Ma il consulente sempre nell'ambito pubblicitario? Sì, sì, sì, sì. Ok, sì. E quindi in quel caso, nel senso. Lavoro di più, guadagni di più, c'è più responsabilità, però lavori da casa, diciamo, vai, fai le riunioni, vai in giro, però non c'hai obblighi, diciamo, da dipendente che stai tutti i giorni in questo posto assurdo che è l'agenzia, dove verso le 7:30 ti dicono che rimarrai fino alle 11 di notte. Certo, perché comunque immagino le pizze. Immagino che sia un lavoro che come dici te, appunto, è proprio estemporaneo, nel senso che se in un momento esce qualcosa che si può sfruttare per generare appunto attenzione, bisogna fermarsi al momento, cioè bisogna agire al momento giusto, immagino. È molto performativo come lavoro, e questo nel bene e nel male, nel senso che è anche un lavoro molto meritocratico, cioè quando uno fa il copy, l'art, l'account, il project manager nel settore della comunicazione, nel settore pubblicitario, alla fine lavori perché sei bravo. Se sei una pippa non ti assumerà mai nessuno. Assolutamente, è veramente certo. Difficile, certo. Cioè te quando fai un colloquio, se hai fatto l'università, ti possono guardare storto, perché ovviamente qua, in Italia, dopo che fai l'università diventi un po' un coglione, parliamo di già, inizia a lavorare a manetta, cioè becchi l'università, il laureato in lettere c'ha una marcia in meno all'inizio. Sì, sì, esatto. C'è una marcia in meno, questi subito vanno, cioè gli fai vedere il book, ti fai lì, mostri, vabbè, ciao, come ti chiami, ok, ti fai, fammi vedere che hai fatto. Cioè non è che ti chiedono certo. Che dove hai studiato, ti dicono fammi vedere che hai fatto. Certo. E anche se so cose che hai fatto a casa tua davanti a un computer da nerdone, che valgono anche quelle. Certo, se sono fatte, fatte bene, insomma, dove le fatte, sì. Non conta, l'importante è che sia una cosa che sì. Funziona. Questa era bella, questa era una cosa bella, per certo. Parlare di una delle poche cose belle. No, assolutamente, perché invece, se vogliamo, invece, proprio per quello che stai dicendo te, proprio per chi cura i vari canali social delle grandi aziende, molto spesso sì. Viene anche usato come capro espiatorio. Basta vedere quello che è successo con non mi ricordo quale social media manager di quale politico, che tempo fa sì. Ha fatto una mega gaffe, e mi sembra Toti, proprio a un certo punto ha detto no, è tutta quanta colpa sua che mi ha scavalcato, no? Quindi naturalmente non è che noi qui stiamo facendo il processo, perché in generale Radio Onda Rossa non fa processi ai lavoratori, ma di più al sistema, che è quello della pubblicità. Tu che ci sei stato dentro a questo mondo qua, come, cioè, nel senso, cerco di farti la domanda in maniera giusta, la percezione, ce l'hai avuta la percezione appunto della volontà di utilizzare meccanismi tra virgolette scorretti per arrivare di più a più persone? Beh, diciamo un po' sì, però non è, cioè, no, non particolarmente, nel senso che l'agenzia che lavora tanto e bene non c'ha bisogno spesso di fare queste cose, e poi se vogliamo la pubblicità è scorretta in sé, ecco. Assolutamente, è quello che stavamo cercando di analizzare, senso, oggi. No, ma infatti, io ho fatto il lavoro del pubblicitario, del copywriter, ho sempre pensato, cioè, io vengo pagato per scrivere stronzate. Cioè, io non conosco il prodotto, certo. Io non so se è buono o no. Io ho un brief di qualsiasi è il prodotto, non è che posso. Io sono un esperto di narrazione, di idee, strutture narrative. Non è che mi chiedo se la BMW veramente fa quelle cose che mi hanno detto di dire. Tu ti sforzi di raccontarle al meglio le cose che ti hanno detto che devi raccontare. Sì, è manipolatoria sempre, perché poi anche quando gliele dici trasparenti è una tecnica manipolatoria, no? Certo. Ormai la gente si sa, vuole che gli dici la verità, e allora se gli dici la verità non è perché poi alla fine va in paradiso, diciamo, perché funziona molto bene anche la verità in tanti casi. Certo, assolutamente. E anche quella, la vita stessa è una tecnica. Ne diventa un meccanismo comunque. Sì, quindi anche per questo poi la tecnica manipolativa, quella scorretta così, a volte non funziona, perché poi la gente non è stupidissima, quindi cioè, è sarebbe un calcare proprio, un forzare proprio, dice. Sì, ma c'è questa questione di Fedez, no, del video che appunto è la Coca-Cola. Sì, sì. E poi me lo so visto, infatti, anche lì. Cioè, il punto è questo qua, cioè fare un video commerciale con sconcertante, con quegli artisti, allora da una parte puoi farlo il video così, ovviamente lì il problema è che non l'hai detto prima, esatto, cioè, non l'hai detto prima, quindi diciamo non hai pagato le tasse, voglio dire, anche questo qua probabilmente non hai venduto ufficialmente quella pubblicità. Certo. È un problema quasi di quasi solo di questo, cioè non l'hai detto ai consumatori e vabbè, però cazzo che non se ne accorgono, c'è scritto Coca-Cola e la politica pubblicità Coca-Cola, cioè no, certo, lo devi dire, lo dovevi dire all'inizio, la Coca-Cola doveva firmarlo. Sì, ma in realtà su tra i vari, non so come si dice, produttori inseriti sotto il video di YouTube compare la Coca-Cola, solo che appunto la G-Com dice che questa cosa qua non basta. E... va bene, doveva stare dentro e così. Però l'idea di fare una canzone con la Coca-Cola io non ci trovo niente di male. No, no, quella è musica di merda, è commerciale. Musica di merda con un prodotto di merda, assolutamente. Sì, esatto, quindi si sta. Cioè, per un artista che fa questo tipo di musica non c'è niente di male, cioè, anche no, nell'arte contemporanea, c'è uno sponsor, non è. Possono nascere anche cose fighe da un prodotto che finanzia un'operazione creativa. Non ci vedo niente di male, ecco, se poi. Cioè non è che ti rovina il prodotto pop, dipende come lo fai. No, no, assolutamente. Il fatto è che la cosa diventa un po' paradossale quando sono appunto gli stessi personaggi che magari vengono visti dall'opinione pubblica come rivoluzionari perché appoggiano il DDL Zan che poi però invece stanno manicati con le peggio multinazionali, c'hanno il monopolio della musica, capito? Nel senso, vabbè, lo sai meglio di me, insomma, queste cose qua come funzionano, avendo abbastanza frequentato l'ambiente, insomma. E io non ti voglio rubare troppo tempo, Clas, se c'hai altre cose da aggiungere. Sto andando a fare una data stasera ad Aprilia all'ex mattatoio, anzi, se dai, qualcuno si sente la radio abita in zona, dalle 9:30. Noi pure consigliamo a tutti quanti, insomma, di seguirti, perché ci hai fatto un sacco di risate, ci hai veramente alleggerito un periodo veramente molto molto, ti ringraziamo, molto difficile. Soprattutto per questo. Noi prima ci eravamo sentiti qualche mese fa per fare un intervento che poi era trattato, ma ci hai dato il permesso di passare i tuoi contributi, ma già l'avevamo fatto senza il tuo permesso perché ci erano piaciuti troppo, quindi te lo confessiamo. E visto che ci siamo, invitiamo pure tutti quanti a venire a sentire a vedere qua a Roma quando starai a Villata, che giorno che starai? Il 12 luglio, dai, quindi noi verremo sicuramente, ci verremo a fare due risate e per il momento ti ringraziamo là. E sicuramente ti romperò le scatole per magari girare un mini video minuscolo, piccolissimo, se ti va, per sostenere il 30 per 1000 della radio, che appunto è la campagna di autofinanziamento che Radio Onda Rossa fa, perché campa senza pubblicità dal 77. Però ci risentiamo in privato e magari lo facciamo, se ti va. Va bene? Va benissimo. Allora, ciao, grazie mille, ti lancio. Ciao Claudio, grazie. L'applauso di Rito, io te l'avevo detto, e dai forte. grande. Un pazzo scatenato, uno di quelli buoni, infatti hai visto lui che diceva io con matti ci ho lavorato, con matti veri. Un percorso incredibile, una persona speciale, sì. Siamo contentissimi. Veramente forte. Con noi. Infatti sì, lo ringraziamo per questo contributo. Andiamo a sentire un'altra canzoncina e ci risentiamo tra poco. E cogliamo anche l'occasione per salutare il grande Banana, che ci fa sentire sempre queste mega super iper bombotroniche chicche. You ready? Look, dog, I'm extra unique. My whole aura screen talent. I've been listening to feel like Griselda and Marvin Wines just to make sure I'm balanced. I'm from the West, yeah. Half of my partners is savage. The other half made it out the mud, but the taste of sludge didn't alter their palate. Yeah. I'm a dog, I'm a beast, and your father figure. Yeah. That little P365 was just fast starter pistol. Yeah. She got a scorpion too, and a sting you just like a scorpion do. If a demon get gregarious, my little Harry don't do what accordions do. Yeah. That means bold, I was told by the G's of bold. Yeah. Keep your lady close, make sure she can work a pole. Yeah. But they wasn't referring to strip. Hell no. I'm still ball fame with the Clippers. Yeah. I done been blessed with a woman that pray heavy, but turn a freak on the liquor. Yeah. She keep the devil off me like the cherubim. She make it clear to hold that we ain't sharing them. I push the Euchinese like a chariot. DK a legend, hey, we had to bury him. But that's how I be in the jungle. Yeah. I grew up around wildings and mongrels. Ready to slump you, thank you a jumpy. Yeah, I rock the stars to be humble. Yeah. I told my baby girl she gon' have more in her head than just product and bundles. Yeah. They say I'm rapping with hunger. Yeah. I tell them, hell no, I'm eating. Yeah. If you book me for a show and I can't bring my wife and my babies, I'm leaving. Yeah. Big Daddy energy speaking. Yeah. keep the enemy tweaking. Yeah. I could go all on the check and they'll say I'm the hardest one breathing. Yeah. I am a beacon for heathen. Yeah. Me and my hood got cohesion. Yeah. It's all me keep with the 30 inch. Yeah. So they miss you when they know what's missing. Ah. Yeah. It's all five, five. If you black, we're safe. Bye, bye, bye. I'ma put it down until I die. This old five. If you black, we're safe. America. Yeah, yeah. Raising the slums, came up from crumbs, now we cool with Erica. Yeah, yeah. Yeah. I'm talking Badu, yeah. I don't know why you don't recognize, but we ain't giving go just like a drive to school. I heard that's only thing that I apply to. Gotta admit it, I ain't kidding, ain't it glorious? Yeah, yeah. I feel like did it, told me it big and we notorious. Yeah, yeah. But it's so much more to us, might get a Grammy. That's the floor to us, got two kids, let's not warriors. Don't need oracles, I ain't warriors. I am. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre io te l'avevo detto. 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi e approfondire il tema della giornata, ossia marketing, pubblicità. Poco fa abbiamo sentito Claudio Morici che veramente non oggi perché l'abbiamo sentito in veste di ex pubblicitario, però insomma in generale ci fa fuori sempre la sua abituale, cioè, sempre grasse risate e insomma ha usato una parola che mentre ascoltavamo questa canzone con Simone vi siamo detti di riprendere in diretta, ossia mercificazione, perché è vero, lui l'ha detto, cioè stiamo a parlare della pubblicità, è scorretta per definizione, ok? E infatti qui andiamo a introdurre l'ultimo spezzone, ossia quello che parla del marketing che sfrutta appunto la pubblicità, la capacità e come dire di inventarci, anzi di come dire di installarci dei bisogni che in realtà non abbiamo, è proprio questo il lavoro del marketing, no? Quante cose provano a venderci di cui non abbiamo bisogno e produrre necessità, esatto, quindi. Esatto, e come per esempio anche la Coca-Cola che nasce come uno sciroppo per la gola, diventa la bevanda su tutte quante le tavole, no? Come dicevamo prima, ha cambiato il colore del Babbo Natale, lo stava a Dio, cambia l'intro, fanno le canzoni e lo stessa settimana va a vedere se è per caso un caso oppure pure lì se uno ci vuole andare a trovare veramente lo zozzo dentro. Cristiano Ronaldo sposta la lattina di Coca-Cola durante la conferenza stampa, dice voi non vi dovete bere la Coca-Cola, vedete bere l'acqua, quindi leva proprio la lattina davanti alla telecamera e dice che è sta roba, io non la voglio vedere. Fa ride pure questo, insomma, chissà, cioè nel senso pure quello potrebbe essere un modo di farne parlare, no? E come appunto tante altre persone usano oggetti, simboli, colori, eccetera eccetera, per portare acqua al proprio mulino sostanzialmente. Qui in Italia insomma ci abbiamo la multinazionale a Roma più vecchia della storia, quella che per prima si è messa a fare marketing e pubblicità, ossia la Chiesa Cattolica, no? Millenni di marketing. Millenni di marketing, la multinazionale più antica del mondo e anche la più ricca. L'agenzia, direi, più antica. E anche la più estesa. E, ci ricorderemo tutti quanti il vecchietto Papa Francesco che si incolla a sto crocifisso enorme da solo in mezzo a non so a quale piazza, forse che era non mi ricordo, però. San Pietro forse, sì. Lui da solo, che è proprio cioè nel senso quella è una foto perfetta, angolazione perfetta con lui da solo, Porello che si incolla, cioè quello è marketing, ok? Tutto quanto quello che, certo, che riguarda la comunicazione di tutte quante queste big multinazionali, aziende, chiamale come te pare, quello è, si tratta di marketing. E c'è anche qualcuno che prova a sfruttare il marketing di qualcun altro, abbiamo visto, perché fa ridere ma è così, voi ricordate Salvini col come che si chiama, col rosario in mano, io il nome di Maria, quella roba lì, il nome di Maria, cioè io ho il potere per il potere conferitomi da Grayskull col rosario in mano. E raga, di questo stiamo a parlare. C'è anche chi attraverso il marketing, attraverso la pubblicità fa politica e c'è via pure, c'è via pure. La Meloni, il successone Io sono Giorgia, cioè nel senso è diventato un tormentone e lei c'ha, l'ha sfruttata questa cosa qua, lei ci ha fatto marketing da una cosa che noi la stavamo a prendere per il culo, lei ci ha svoltato, ci ha fatto anche un libro con scritto Io sono Giorgia, sono una madre, sono italiana, poche parole sintetiche che spiegano bene il concetto, insomma, no? Che poi in realtà non vuol dire niente, perché italiana, donna e madre, ok, vabbè, niente di negativo, è associato al personaggio, però diventa automaticamente marketing e diventa una macchietta del personaggio. E comunque, visto che si sono fatte le 7:15 e tutti e tutte voi ascoltatori e ascoltatrici non state aspettando nient'altro che la rivisitazione di questa canzone del trio Fedez, Berti, Lauro, che parla di Coca-Cola, io avevo proposto una cover Labbra Rossa Rosse Tavernello al posto di Coca-Cola, però mi hanno fatto notare che effettivamente non fa così ride, perché non fa rima con Coca-Cola. Vediamo che si è inventato il nostro fantastico duo bucolico che ci tiene compagnia con questa nuova hit, chissà se estiva, secondo me sì, sicuramente sarà super estiva, ce l'andiamo a sentire subito, canzona 5. Zan zan zan zan. Quello che hai messo nel bicchiere mi fa effetto. Vedo doppia adesso, è lo stesso. E mi chiudo accesso e collasso. Sì, lo so che ti piaccio, lo stesso. Al market c'è il 3x2. Andiamo tutti in massa, popolo bue. Prendi anche un etto di prosciutto. Che faccio, lascio un altro poke. Mi hai fatto bere come un barbaro e sono le 3. Un altro giro stavolta lo paghi te. Però mi dici non guidare, che è meglio di no. Che non mi reggo in piedi adesso, barcollo un po'. Occhio che qua come ti giri, caschi dai gradini. Mi si incastrano i piedini in mezzo ai San Pietrini. Io te l'avevo detto, collasso. Tanto mi ami lo stesso. Quando sei arrivata me ne stavo andando con l'amico mio, quello astemio. Questa sera se merita un premio, se mi porta a dormire labbra rosse di vinello. Dimmi quanto ho speso stasera, fratello. Ero uscito con 50 euro e va bene così, ma adesso ne restano 5. Me ne restano 5. Ero uscito con 50 euro, ma adesso me ne restano 5. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo, top, top. Tutte le volte, tutte le puntate, veramente escono mine. Incredibile, incredibile. Labbra rosse, vinello. E quando sei arrivato, me ne stavo andando via con il mio amico Astemio. Bellissimo. Veramente una produzione sempre più di alto livello del duo bucolico. che appunto prende, prende in giro questa canzone, che è un chiaro, è una chiara pubblicità per la Coca-Cola, che insomma è una delle battaglie che, come dicevamo prima, tempo fa si facevano, no? Quella di boicottare le multinazionali, soprattutto alcuni tipi di multinazionali. Forse non ci avevamo visto così male, abbiamo allentato un po' la presa a livello di movimento su questa roba qua, invece bisognerebbe restringerla un pochino, questa roba qua, no? Tu che ne pensi? Sì. Sarebbe il caso sempre di continuare insomma a tenersi distanti, perché come diceva prima Claudio, molto spesso insomma molto spesso può succedere insomma che da queste, come dire, collaborazioni nasca anche qualcosa di artisticamente decente, no? Io vi dico la verità, l'ho sentita due volte la canzone, questa qui, quella originale, non questa di Peppe e Serena, l'originale. E la prima volta insomma l'ho sentita, come dicevo poco fa, con Simone, e ho detto: ma te pare che io sta a sentire questa cosa? La seconda volta che l'ho sentita, la seconda volta che l'ho sentita, a me la cosa quella che mi ha neanche sorpreso, però mi ha fatto incazzare, è il fatto che già la sapevo a memoria, cioè il ritornello io già no, perché è così, ma studiato apposta. A parte il fatto che è chiaramente un plagio di Cerco un centro di gravità permanente, cioè chiaramente proprio. Però insomma è che c'è sta tanto, sono fatte apposta per rimanerti in testa. Potrebbe. E già le canzoni sono fatte apposta, alcuni tipi di canzoni, soprattutto quelle pop, sono fatte apposta per rimanerti in testa. Se ci metti in più il grande marchio, insomma qua rischiamo veramente che stiamo a parlare di un capolavoro che rimarrà per centinaia di anni scolpito agli annali, sì, scolpito nelle nostre menti e nella nostra cultura musicale, cioè nel senso potrebbe essere la nuova canzone del sole. Cioè nel senso non c'è da ridere, qua c'è da preoccuparsi. Ebbene sì. Vabbè, niente, quindi io direi che all'incirca abbiamo esaurito tutte quante le stupidaggini che volevamo dire. Vi ricordiamo di nuovo che se abbiamo scordato qualche piccolo cavillo di questa cosa qua, ci fa piacere affrontarla insieme a voi in diretta. Ci potete chiamare allo 06 49 17 50 e ci andiamo a sentire un'altra canzone, e nel frattempo vediamo se succede qualcosa. Ciao. C'era certo che io fossi l'arma dietro. Tutto pensavo di fare sì, tranne questo, tranne che stare in un palazzetto, sulle mani senza un'arma dietro. Tutta colpa di un clip che ho visto, una botta tipo tilt del bimbo, tre tipi del Queens, Black Beatles, inattesi come il green del fisco. Un vuoto così forte che è arrivato fino a Chernobyl, gli occhi devo un parto, non fighe centoni, io solo ho trovato una fila di censori. Diamine! Chiuso con l'amica il quattro piste, mica con l'amica farmi quattro piste, in una mattina quattro risme, preso dalla fissa del mio viaggio Ulisse. Rime senza criteri, la voce di ieri, la faccia di Kitter, prima delle posse, prima che il rap fosse sulle tracce di Lenin. Festival di Castro Caro, ando bene mica tanto, levati dal cazzo caro, ando bene di Cataldo. Mi chiamò la RT, poi la Sony, poi MTV, ma in ogni casa mi fecero fuori, meglio firmare per la casa di MTV. Puntavo ad essere un campione dei 90, ma persi come quel campione dell'Olanda, cacciato via dalla stazione Diegolandia, passavano sopra il mio nome. Io benedica gli anni zero, a farmi a zero, campione dei 90, campione dei 90, campione dei 90, campione dei 90. I produttori dicevano: tu devi scrivere un pezzo su questo e quello, fare canzoni che aiutino il pubblico a mettere roba dentro il carrello. E sono andato a Sanremo, quando rappare a Sanremo aveva l'effetto di un sacrilegio. Io che non ero la star di pregio, ma l'ho sfigato che stavi in major. Comunque, ma mai difeso le mie scelte. Con unghie preferivo le caverne. Ho un bunker, ma seguì la corrente. Con unghie i colleghi evolvevano, erano dei mostri Godzilla. Io mangiavo gli ossi con Vilma, famoso in Francia come i rossi in bottiglia. A Moulin Rouge in una grossa conchiglia. Beh, erano mosse maldestre, prendevo botte da wrestler. Il mio tracollo palese, che va da Cornell a Chester. E dopo il buio, l'Ulis arriva di tacca più forte, palestre. Chioma folta e basette, ma la scena ancora non mi riconosce, la Erte. Aggiungi il vecchio me dentro il club 27. Risorto nel 2000 e mi sembra evidente. Che fortuna fu la mia rovina, ascolto Roba New e una robina. Il voto di una hit continua, in confronto Mickey Mix e Bob Dylan. Puntavo ad essere un campione del 90, ma persi come quel campione dell'Olanda. Cacciato via dalla stazione di Golandia, passavano sopra il mio nome in retromarcia. Dicevano quello è uno 0-0, dal microfono lontano dallo 0-0, del binocolo rinato come 0. Io benedica gli anni 0. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre io te l'avevo detto. 06 49 17 50 06 49 1750, per mettervi in contatto con noi e dire un paio di stupidaggini per questi altri pochi minuti che ci rimangono da passare insieme. E allora, pubblicità. Per quanto riguarda la pubblicità, insomma, si fa pubblicità ormai su veramente su qualsiasi cosa. Tutto quanto ha bisogno di essere sponsorizzato, pubblicizzato. Ci sono sicuramente tanti modi di farsi e di fare pubblicità. Ci sono quelli che vogliono, per necessità di obiettivo, arrivare a tutti e a tutte senza escludere nessuno. Invece ce ne sono altre proprio che fanno della loro forza, fanno il loro punto di forza, insomma, l'esclusione di altre categorie. Stiamo parlando, per esempio, della nota agenzia funebre che sta qui a Roma, se non mi sbaglio, Taffo, che insomma, sicuramente avrete visto o sentito qualcosa che riguarda questa cosa, questa agenzia funebre. Perché ne parliamo? Perché è assurdo che si riesca a fare pubblicità in maniera anche ironica su un argomento del genere, no? Hanno fatto anche pubblicità, cioè, delle uscite geniali, sì, geniali veramente. Alcune volte anche attaccando molti personaggi politici di destra, no? Andando contro tutto quanto quello che riguarda le discriminazioni sessuali e razziali. Insomma, hanno fatto diverse campagne molto, molto intelligenti. Magari riprenderemo pure l'argomento. Che poi devono, insomma, una persona in particolare, che è Riccardo Pirrone, che è quello che gli ha curato, insomma, la campagna pubblicitaria, che poi, insomma, segue ONG, altre fondazioni, insomma, è un pubblicitario innovativo, insomma, è giovane e insomma, ha canalizzato con la TAFO questa maniera, direi, ironica, insomma, di arrivare, no? Insomma, di noi ne stiamo vedendo alcune, ce ne stanno certe che sono atroci, veramente. Però è geniale come forma di comunicazione. Sì, assolutamente. Come dicevamo, seppur un meccanismo pubblicitario con quello scopo comunque di mera vendita, in questa maniera è fatto in maniera ironica e acuto, come dire. Assolutamente, assolutamente. E soprattutto è targetizzato, cioè, nel senso, come dicevo poco fa, loro non si fanno il problema di voler arrivare a tutti, anzi, al contrario, dicono la loro, che magari può anche essere per convenienza, ma dicono la loro che in un modo abbastanza ironico che diventa ammiccante per chi insomma si rispecchia dentro gli stessi valori di chi crea quella tipologia di pubblicità. Cosa molto simile a quella che fanno gli influencer, ok? Il ruolo dell'influencer, che è quello che è la nuova frontiera del marketing, della pubblicità, no? C'è una persona che fa del suo corpo, della sua vita, appunto, un veicolo di per prodotti, un veicolo di pubblicità per prodotti. Questa roba qua, in effetti, la G-Com e l'antitrust ci si sono un pochino incagliati in questo ultimo video, per forza di causa, perché è un fenomeno che è recente, recentissimo, soprattutto qua in Italia, che però potrebbe creare non pochi problemi. Come dicevamo prima, sono intervenuti anche durante l'ultimo festival di Sanremo, perché la Ferragni, che fino a qualche settimana fa era quella che aveva più follower in assoluto, poteva falsare il concorso, suggerendo ai suoi seguaci di votare per il marito. Questa roba qua è abbastanza particolare, perché è una cosa un pochino diversa rispetto a quello che è successo fino adesso. È un modo diverso di fare pubblicità, e soprattutto diventa problematico nel momento in cui questi influencer vengono anche utilizzati da organismi statali per promuovere dei messaggi, per pubblicizzare dei messaggi. Sicuramente vi ricorderete che sono stati sempre la coppia Ferragnez è stata chiamata in causa da Conte per sensibilizzare i giovani all'uso del vaccino. Sempre Fedez si è messo in ballo per il DDL Zan. Dal mio punto di vista, per quanto riguarda il caso quello di Conte, che gli va a chiedere una mano all'influencer, è pubblicità per la campagna vaccinale, ok? Mentre invece, per quanto riguarda il secondo caso, quello di Fedez, che si mette la faccia a favore del DDL Zan, è completamente diverso. Stiamo parlando di un personaggio che rivendica delle battaglie che tutti quanti i movimenti globali portano avanti da 20 anni, e sembra veramente che lui sia il paladino di questa roba qua, no? E questo qua diventa veramente, come dicevamo prima quando prendevamo per il culo Salvini con il rosario, diventa il filo diventa talmente sottile che non riesci più, no, che è inevitabile cadere da questo filo, ok? Nel senso che dal momento in cui poi il tuo testimonial non la pensa come te su una cosa, e quindi si tira indietro, o ancora peggio, si mette a dire la cosa contraria rispetto a quella che te gli ordini, diventa un bel problema, ok? Quindi anche questo qua è un aspetto molto molto pericoloso di questa roba qua, e seguiremo un pochino pure le vicende che continueranno intorno a questa cosa qua. Io per il momento penso che possiamo salutare i compagni e le compagne all'ascolto, perché siamo giunti, sì. La domenica diventa sempre più impegnativa con l'avanzare del caldo e dell'estate, insomma, e dei gradi soprattutto, esatto, e non mollate, resistete. Quindi direi che da Io te l'avevo detto per questa settimana è più o meno tutto. Salutiamo tutta quanta la redazione artistica, Peppe, Serena e Ivano, che come sempre hanno fatto un lavorone. Io adesso un abbraccione a Giacca e Nanda, dai, è forte regà, soprattutto sì, a Giacomo e a Nanda, che Giacomo doveva stare qua con noi, ma tornerà presto su queste frequenze insieme a voi. E soprattutto mandiamo un saluto a chi non gode della libertà personale, e chi insomma non c'ha problemi di pubblicità. Speriamo insomma che settimana prossima ce la sentiamo insieme da qua fuori una puntata. E metto un'altra canzone per salutarci e per salutarvi, e niente, vabbè, non vi ci racconto niente perché me la tengo per me. Io te l'avevo detto, è quasi tutto, compagne e compagni. Io te l'avevo detto per questa settimana, vi saluta direttamente dagli studi di Via dei Volsci 87.9 Radio Onda Rossa. Io te l'avevo detto, resistenti, dai, è forte, buona settimana. Vi ricordiamo che potete trovare i podcast di questa e di tutte quante le altre trasmissioni della radio su www.ondarossa.info in versione totalmente gratuita. Potete